Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Alessandro Giacobbe di Circuito Cinema Genova, hashtag Io Resto in Sala, presenta il documentario I Am Greta di Nathan Grossman, on demand da sabato 14 novembre 2020. Alessandro, ben trovato. Grazie per avermi invitato e un saluto a tutti i radioascoltatori. Che storia è questa? Il personaggio di Greta Thunberg credo sia ormai noto a tutti e non ha bisogno di particolari presentazioni. Il film documentario che andiamo a presentare sulla piattaforma Io Resto in Sala insieme al nutrito gruppo di colleghi esercenti che ha aderito a questa iniziativa ha la particolarità di addentrarsi un po' più sullo studio della personalità di Greta, quindi è un ritratto un po' più intimista che però accompagna la storia dell'attivista ambientale attraverso delle immagini molto avvincenti e anche direi inedite. Praticamente seguiamo tutto il suo percorso dal primo giorno di sciopero per il clima davanti al Parlamento svedese fino al discorso tenuto a New York nella sede delle Nazioni Unite in occasione del summit sull'ambiente, dove è arrivata a New York, ricordiamo, non in aereo ma coerente con le sue idee, con una traversata in barca a vela dell'Atlantico durata 2 settimane, della quale ci sono immagini molto emozionanti e direi molto coraggiose, nel senso che è stata indubbiamente una scelta importante per lei attraversare l'oceano per arrivare a questo appuntamento. Secondo te funziona questo abbinamento tra ritratto privato e movimento globale? L'aspetto privato di Greta non è mai stato raccontato prima d'ora, per cui è interessante poter capire anche il rapporto con i genitori, il fatto che comunque questa è una ragazzina che quando è iniziata la sua avventura non aveva neanche 16 anni e quindi con tutte anche le sfaccettature di un adolescente che vive comunque un'avventura molto particolare e i genitori che però le sono assolutamente di supporto e anche il rapporto soprattutto col padre viene raccontato in modo molto interessante. Quali sono gli elementi di questo documentario che più ti hanno convinto? È un momento per approfondire un po' di più la sua vicenda e le sue motivazioni. Personalmente, ovviamente, ho sempre saputo della sua esistenza, ma non avevo mai avuto occasione di approfondire appunto la sua storia, le varie vicissitudini. Ho trovato anche dei momenti e degli incontri che lei ha avuto nel corso della sua esperienza, di cui non sapevo, da ignorante lo confesso, mi ha particolarmente colpito l'incontro con Macron in Francia all'Eliseo, quindi credo che possa essere una piacevole scoperta per tutti, soprattutto per i ragazzi. Ecco, una cosa importante che credo possa essere detta è che è un film che va visto soprattutto dai coetanei di Greta e dai ragazzi della sua generazione e infatti proprio per questo anche in collaborazione con Koch Media che distribuisce il film in Italia, abbiamo organizzato con l'ufficio di Circuito Cinema Scuole la possibilità per tutti gli istituti in Italia e quindi gli studenti italiani la possibilità di vedere il film anche con la didattica a distanza, quindi la possibilità di vedere in streaming tramite appunto la piattaforma Io Resto in Sala il film e quindi è un invito a anche tutti gli insegnanti e agli studenti di mettersi in contatto con l'ufficio di Circuito Cinema Scuole, il sito è circuitocinemascuole.com per poter organizzare appunto proiezioni virtuali in streaming di questo film per il quale abbiamo anche preparato una scheda didattica proprio di percorso alla lettura e all'approfondimento del film per agevolare anche gli insegnanti e gli studenti a apprezzare al meglio quest'opera. Di quest'autore Grossman sappiamo qualcosa d'altro? È una scoperta piacevole dal punto di vista dell'approccio a questo personaggio di Greta. La cosa più importante di questo film documentario direi che il personaggio Greta viene fuori in modo molto avvincente, quindi di per sé forse anche mettendo un po' in secondo piano le caratteristiche più specificamente registiche dell'opera. A livello internazionale ha avuto dei riscontri? Il film film in realtà doveva uscire in Italia in sala in questi giorni e purtroppo la scelta della piattaforma è una scelta dettata dalla contingenza, però anche nel resto del mondo è in uscita in questo periodo, quindi non abbiamo ancora riscontri dell'eventuale dibattito che si fosse acceso intorno al film, ma penso che ne sentiremo parlare molto presto. I Am Greta di Nathan Grossman, on demand, sabato 14 novembre 2020. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Giacobbe di Circuito Cinema Genova, hashtag Io Resto in Sala. Alessandro, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie a tutti, a presto, arrivederci. Con Giulio Casadei, direttore artistico del Mad Film Festival, e New Together, il titolo di quest'anno, dal 9 al 15 novembre 2020 per la 26esima edizione. Giulio, ben trovato. Ben trovato, grazie. Raccontiamo cos'è questo festival. Prima di tutto un piccolo aggiornamento sulle date, una notizia delle ultime ore che diffonderemo a brevissimo, cioè che abbiamo deciso di allungarci leggermente fino al 20 novembre per dare modo insomma a tutti i tanti film che verranno diffusi su Mamini di poter essere visti il più possibile. Dunque le date definitive del festival saranno dal 9 al 20 novembre, tutto in esclusiva su Mamini.it. E il programma di quest'anno vede la presenza di 70 film complessivi in rappresentanza di 30 paesi delle due sponde del Mediterraneo, con ben 43 film inediti. Abbiamo una struttura che è quella consueta, 8 sezioni complessive, di cui 2 competitive, il concorso ufficiale Premio Repsiche dedicato al lungometraggio e mediometraggi di finzione documentaria e il concorso internazionale cortometraggi. 2 le principali novità di quest'anno, una retrospettiva speciale dedicata ai Lux Film Days, il premio speciale che il Parlamento europeo attribuisce ogni anno di un'opera europea, e quest'anno abbiamo deciso di realizzare una retrospettiva di 6 titoli, 6 film che sono stati finalisti del premio Lux nell'ultimo decennio, film straordinari che raccontano alcuni temi fondamentali dell'oggi, come le migrazioni, l'emancipazione femminile, la guerra, la scuola, l'infanzia. I film che compongono la selezione sono Mediterranea, Sunny Blood, Estate 1993, Appena apro gli occhi, Sole alto e Class Enemy. L'altra grande novità di quest'anno, a cui teniamo particolarmente, è una retrospettiva dedicata alla Nouvelle Vague algerina, che si chiama Denon Algérie, retrospettiva sul futuro del cinema algerino. Abbiamo deciso di giocare quindi con le parole, di realizzare una retrospettiva su quello che noi immaginiamo essere il futuro del cinema algerino. La retrospettiva vede la presenza di 8 film, 6 mediometraggi e 2 cortometraggi realizzati da tutti i migliori nuovi talenti del cinema algerino, come Karim Moussaoui, Sofia Djama, Mentidi Boumediene e tanti altri. Una generazione che ha come segno caratteristico quello di essere cresciuta in un preciso momento storico dell'Algeria, un momento cruciale, quale è quello del decennio nero. Inoltre, per quanto riguarda invece il concorso ufficiale, quest'anno abbiamo 8 film in concorso, in rappresentanza di 8 paesi diversi delle due sponde. Abbiamo l'egiziano Lift Like a Girl, il racconto dell'emancipazione femminile attraverso lo sport. Abbiamo La ultima primavera di Isabel Lamberti, una coproduzione Spagna-Olanda che racconta dell'emergenza abitativa e della forza dei legami familiari nella Spagna contemporanea. Abbiamo Il turco Ghost di Azra Deniz Okay, che racconta invece le contraddizioni della Turchia di Erdogan, la speculazione edilizia e traffico di droga, o ancora Irachen Sandlines di Francis Alice, finché rimette in gioco, ripensa, decolonizza il passato storico dell'Iraq attraverso una sorta di film performance che vede come protagonisti esclusivamente dei bambini che nel deserto si rimettono a giocare, a ripensare, reimmaginare, ricreare la storia del Novecento iracheno. Poi abbiamo ancora una commedia francese, À l'abordage di Guillaume Braque, regista caro al festival, aveva già vinto da noi 2 anni fa con Il Trésor. E poi abbiamo un'altra commedia palestinese, Gaza con l'amour dei fratelli Nasser, Tarzan e Arab, un bellissimo film che racconta una storia d'amore a Gaza oggi. E poi per concludere, 2 film invece legati ai temi diciamo del metacinema, l'iraniano Careless Crime e l'israeliano The Last Cinema My Father's Place. A colpo d'occhio, quali sono le aree da cui arrivano le proposte più stimolanti? Spagna non è una novità di quest'anno. Negli ultimi anni la Spagna è sempre stata protagonista assoluta del festival. Negli ultimi 4 anni abbiamo portato in concorso opere di nuovi giovani autori emergenti che poi hanno avuto grande successo, grande ribalta internazionale. Il film di quest'anno, L'ultima primavera, lo conferma, ma la Spagna è anche tanto altro, perché come già citato abbiamo nella retrospettiva sul Premio Lux estate 1993 di Carla Simon, uno dei più bei esordi del cinema europeo negli ultimi anni, ma anche nel concorso un bellissimo cortometraggio, si chiama Correspondencia, realizzato a 4 mani tra una regista spagnola, Carla Simon, e una regista cilena, Dominga Sotomayor Castillo, una vera e propria corrispondenza epistolare tra queste due registe che raccontano il rispettivo privato ma anche gli aspetti politici, anche controversi del contemporaneo. Penso in particolare alla regista cilena. L'altro paese sicuramente in grande forma è il già citato Algeria. L'Algeria è di gran lunga forse il paese più interessante cinematograficamente dell'ultimo decennio, e noi lo racconteremo non solo attraverso la retrospettiva di cui ho appena parlato, ma anche attraverso tanti altri film disseminati in tutte le sezioni. Mi preme in particolare ricordare la presenza di Narges A, di Karim Aynous, grandissimo regista di fama internazionale, brasiliano di origini algerine, che l'anno scorso ha realizzato un intero film con uno smartphone seguendo una giornata nella vita di un'attivista algerina, Narges Azmi, durante le proteste del 2019 in Algeria, che hanno impedito sostanzialmente la quinta candidatura del presidente Bouteflika. E poi anche la Turchia negli ultimi anni ha espresso tanto buon cinema, e cinema, preme sottolinearlo, dissidente, tanti giovani autori che a partire soprattutto da Istanbul formulano, realizzano, mettono in scena sguardi critici sul presente contro la presidenza di Erdogan. Beh, è difficile poi chiaramente riassumere un programma così vasto, peraltro anche l'Iran, che non è un paese spagnolo al Mediterraneo ma che noi tradizionalmente includiamo nel nostro racconto allargato sul Mediterraneo. L'Iran quest'anno è stata un'annata particolarmente ricca, oltre a Careless Crime nel concorso. E mi preme ricordare soprattutto il nostro premio alla carriera di quest'anno, che è dedicato a Babak Karimi, bravissimo, importantissimo attore e montatore iraniano, che però è stato appunto una figura importantissima come dialogo, come ponte tra le due culture delle due sponde, quindi tra l'Iran e l'Iran, soprattutto anche il ruolo che ha svolto per ben 8 anni di consulente del cinema iraniano al Festival di Venezia. Per tutte le informazioni, riferimenti internet? Il programma lo potete trovare integralmente su mymovies.it. Ricordo agli ascoltatori, gli utenti potranno fruire di tutto il programma, di tutte e 70 le opere, pagando un piccolissimo abbonamento di appena 9,90€. Quindi con 9,90€ si ha accesso a tutti i film del programma. Oppure potete trovare tutte le informazioni sul festival anche sulle nostre pagine social, in particolare Facebook, e anche al sito internet del festival, madfilmfestival.org. 26esima edizione del Mad Film Festival, quest'anno il titolo è New Together, su mymovies.it dal 9 al 20 novembre 2020. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Giulio Casadei. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Credi, grazie a voi. Alessandro Stellino, direttore artistico della 61esima edizione del Festival dei Popoli, su Più Compagnia in collaborazione con My Movies dal 15 al 22 novembre 2020. Alessandro, ben trovato. Grazie, buongiorno. Presentiamo intanto il festival per chi non lo conoscesse. Che tradizione ha? Qual è lo spirito di questo festival? Ricordiamolo. È il festival più antico d'Europa in ambito documentario, quindi insomma c'è un grande orgoglio nel portare avanti questa manifestazione, la mia prima direzione artistica. È un festival che nasce sull'onda degli studi di etnografia e di antropologia visuale, quindi con grande attenzione alla storia dei popoli e delle geografie. Naturalmente con gli anni si evolve, anche con l'evolversi del linguaggio documentario. Ora siamo nel 2020 e il festival testimonierà della grandissima varietà di linguaggi che questo cinema documentario ci può raccontare attraverso i tanti film che abbiamo selezionato. Sono quasi una cinquantina quelli che offriamo sulla piattaforma di Più Compagnie My Movies, sono in realtà solo una parte del programma, avevamo composto a partire dai primi mesi di quest'anno, e la parte restante la teniamo in serbo per quando riapriranno le sale, speriamo molto presto. Da quanti paesi arrivano? Un po' da tutto il mondo, sono una ventina di paesi europei e una decina di paesi extraeuropei. Cerchiamo ovviamente di salvaguardare le differenze, la diversità appunto non solo degli stili e dei linguaggi, ma anche del racconto che, proprio come dicevamo poco fa, legandoci anche alla tradizione e all'origine di questo festival, ci interessa molto essere, come dire, un luogo, il palcoscenico del racconto di tutto un mondo in perenne trasformazione. Come sarà strutturata l'edizione online? Rispecchia quella che doveva essere la programmazione di serra, quindi ci saranno proiezioni quotidiane a partire da domenica 15 a orari ben precisi, per cui l'utente che andrà sulla piattaforma online troverà una serie di film programmati domenica, lunedì e nei giorni a seguire a orari specifici. La differenza è che i film rimarranno disponibili, per cui diciamo che in una dimensione come quella virtuale che prende il festival in questa maniera, il film non è più in quel dato momento, in quel dato luogo, ma è visibile più a lungo. Quindi a partire da domenica, ad esempio, i film programmati nella giornata del 15 saranno disponibili la settimana seguente. Ci saranno delle sezioni? Ci sono tante sezioni, ci sono naturalmente i concorsi. Il festival presenta 18 film in concorso internazionale, ne presenta 7. Competizione nazionale, c'è un film d'apertura che è Patti in Florence, dedicato al rapporto tra Patti Smith e la città di Firenze, girato da un giovane regista fiorentino che si chiama Edoardo Zucchetti. Sempre nella giornata di domenica c'è anche un altro film di un regista toscano importante che è Duccio Chiarini, presentiamo L'Occhio di Vetro, che è il suo nuovo documentario. Ci sono poi sezioni dedicate all'ambiente, Habitat, con una decina di film su questo tema. C'è una sezione dedicata ai documentari musicali, di cui il film su Patti Smith è un po' l'apertura, la sezione si chiama Let's Music Play. C'è poi una sezione dedicata all'ibridazione dei linguaggi, alla sperimentazione e agli innovatori, si chiama Doc Explorer. C'è infine una sezione dedicata ai film per i più piccoli o più giovani, che si chiama Popoli for Kids and Teens, e c'è anche una sezione dedicata alle scuole di cinema, che è il Doc at Work Future Campus. Ci sarà la possibilità di interazione da parte del pubblico, nel senso incontri con gli autori e autrici? Ci saranno alcuni incontri con i registi, alcuni naturalmente li registreremo e li diffonderemo sui social, e lì sicuramente ci sarà comunque la possibilità di interagire, altre saranno delle vere e proprie lezioni, delle masterclass o delle chiacchierate, ecco, con gli autori più rilevanti della nostra manifestazione, e in questo senso si potrà anche interagire, certo. I riferimenti web per saperne di più? Il sito del Festival dei Popoli, che è festivaldeipopoli.org, o se no il sito di My Movies e più compagnia, dove trovate insomma le specifiche legate agli abbonamenti. Basta andare sulla pagina ad esempio di My Movies, selezionare Festival, e viene subito nella tendina il Festival dei Popoli, e lì trovate il programma completo e le modalità di abbonamento per 9,90 €, quindi a malapena di un biglietto solo, se ne possono vedere quasi 50. 61esima edizione del Festival dei Popoli su Più Compagnia, in collaborazione con My Movies, online dal 15 al 22 novembre 2020. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Alessandro Stellino. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Bel lupo, grazie a voi, buon lavoro. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.